Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare di telerilevamento stasera a Smart City, cioè di tutto quello che oggi è possibile sapere sul nostro pianeta, sulle nostre città, grazie alle informazioni che ci forniscono dall'alto aerei, sempre più spesso droni e soprattutto satelliti. Diamo subito il benvenuto al nostro ospite Enrico Brugnoli, direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del CNR. Buonasera Brugnoli. Buonasera a lei. CNR, che come dicevamo ieri è stato indicato come uno degli istituti di ricerca più avanzati al mondo su questi temi, il primo in Europa. Dunque Brugnoli, ieri abbiamo spiegato che uno dei punti di forza di questi sistemi è la possibilità di osservare la Terra non solo nella luce visibile, cioè quella piccola finestra dello spettro elettromagnetico che i nostri occhi sono in grado di percepire, bensì sono in grado di osservare la Terra in un intervallo molto più ampio di frequenze, si dice di lunghezza d'onda, che va dalle onde radio fino ai mitici raggi X. E stasera vorrei proprio che ci spiegasse che cosa si può vedere, che cosa si può fare ampliando la nostra povera vista umana. E le chiederei, partiamo dai raggi infrarossi, che tra l'altro noi in qualche modo percepiamo, non con la vista, ma per esempio con il tatto. I raggi infrarossi intanto sono danno diversi tipi di informazioni, come accennavo anche ieri, e alcuni raggi infrarossi nel cosiddetto infrarosso vicino danno informazioni anche per esempio sulla vegetazione, si arriva poi al cosiddetto infrarosso termico, quindi ad un lunghezza d'onda maggiori, e ci danno informazioni per esempio sulla temperatura, su una serie di attività da parte della vegetazione, del mare ed altro. E queste radiazioni sono comunque radiazioni in qualche modo riflesse o riemesse dai corpi, quindi anche dalla superficie terrestre. Sostanzialmente noi andiamo a vedere che cosa viene riemesso, e la presenza di nuvole, per esempio di nubi, ostacola fortemente la misurazione e le osservazioni. Cosa che non accade invece se parliamo di onde radio. Qui come funziona? Sostanzialmente siamo noi che irradiamo la superficie terrestre con delle radiazioni elettromagnetiche a microonde e osserviamo quelle che vengono in qualche modo retrodiffuse o riemesse. È il principio del radar, insomma, esatto. Si spara un impulso, si aspetta il riflesso e per esempio calcolando il tempo che impiega l'impulso ad andare e tornare si può sapere a che distanza si trova un oggetto. Ecco, questi rilevamenti con le onde radio passano, dicevamo, attraverso le nuvole. Per che cosa vengono utilizzati? Vengono utilizzate per una serie di attività molto varie, diciamo. Per esempio nel nostro dipartimento noi ci occupiamo molto di studiare la superficie terrestre e i movimenti della superficie terrestre. Diciamo, in Italia è bene tenere d'occhio, no? Perché tra frane, vulcani e terremoti. Nei nostri istituti abbiamo fatto quello che ha rilevato che cosa succede per esempio prima e dopo un terremoto. Dato che i satelliti passano e ripassano sugli stessi punti, osservano la stessa superficie, facendo comparazioni si è riusciti per esempio a verificare che dopo il terremoto dell'Aquila, così come anche dopo Reggio Emilia, ci sono stati sollevamenti della superficie terrestre anche di 10-15 centimetri. Credo che sia questa tra l'altro una misura per voi relativamente facile. Può sembrare sorprendente che magari da qualche decina o centinaio di chilometri si possa misurare un cambiamento di altezza della superficie di 15 centimetri, ma io credo che voi siate in grado di misurare anche differenze molto più piccole. Esattamente, la risoluzione si basa anche sul tempo con il quale i satelliti ripassano. Tra l'altro questa è una tecnologia italiana che noi dobbiamo all'Agenzia Spaziale Italiana, cioè quella di Cosmo SkyMed, abbiamo una costellazione di satelliti che passano sulla Terra. Adesso per esempio il CNR si sta impegnando molto con un progetto che rientra un po' nei progetti del cluster nazionale aerospazio. E su questi, per esempio, l'impegno maggiore è quello di individuare dei sensori molto più piccoli che possono quindi essere portati, come diceva lei, non solo da satelliti ma anche da piccoli velivoli o addirittura droni, così come però avere anche satelliti che impiegano meno tempo a passare sullo stesso punto e quindi filano, dei tempi di ritorno molto più brevi. Oltre, diciamo, a togliersi la curiosità di sapere cosa è successo dopo il terremoto, monitorare questi spostamenti, diciamo, molte applicazioni, soprattutto credo in un paese come l'Italia, no? Cioè perché serve tenere d'occhio? Per il rischio idrogeologico e per i movimenti terra che possono indurre delle frane anche di grandi dimensioni in qualche caso, ma in qualche caso anche dei piccoli movimenti che possono interessare la sicurezza per esempio di edifici, infrastrutture o altro, per esempio come viadotti, possono crearsi dei crack che vengono per esempio negli edifici, delle rotture che vengono evidenziate proprio da piccoli movimenti della superficie terrestre. Tra l'altro le onde radio entro certi limiti sono anche in grado di penetrare nella la superficie terrestre, no? Quindi vedere cosa c'è sotto dallo spazio, interessante. Le discariche abusive in qualche misura, fantastico. Anche se non possiamo scendere oltre un certo livello. Grazie allora, grazie Enrico Brugnoli. Grazie a lei, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.